Radio Tube Social Village di Marta Cagnola. Alle 16:07 iniziano le nostre due ore in diretta del sabato pomeriggio su Radio 24. Due ore piene di musica, di televisione, di cose belle da guardare, di cose belle da vivere, poi di tanta attualità, tutta l'attualità dalla rete e della rete nella seconda ora, che è quella di Radio Tube Social Network. Tanti gli ospiti, voi potete tenervi in contatto con noi con SMS e WhatsApp al 349-238-6666, ma ci sono anche i miei account social, che sono chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Allora, tanti ospiti per oggi, cominciamo con moltissima musica. Io comincerei subito con un pezzo e con un ospite, un singolo, un album davvero da tenere d'occhio, davvero molto bello. Dimmi com'è possibile, eppure sta per succedere, tempesta sopra di noi, la bestia dentro di noi. Non avrei detto mai, ed eccoci tornare qua giù, perché la risposta è lassù, ma soffia nell'aria, quante strade pezzo si intitola Com'è possibile ed è tratto da un album bello importante, Mi ero perso il cuore, ed è l'album d'esordio solista del frontman dei Marlene Kunz, del grande Cristiano Godano. Benvenuto Cristiano. Grazie, ben trovati, tutto bene? Qui tutto bene, lì come si sta da debuttanti? Sono in una fase di promozione, quindi sto facendo molte interviste, cose a cui sono abituato, però è chiaro che sono da solo questa volta. Si sta bene. Si sta bene, si sta bene. Sì, ovviamente sì, sì. Molti occhi puntati addosso, perché dopo qualche decennio con i Marlene Kunz decidi di provare questa avventura. Intanto ti devo chiedere perché. Precisiamo che qualche vuol dire tre, perché qualche decennio, se fossero 7-8, sarebbe... la mia avventura solitaria, secondo me, si inserisce in una tradizione ben collaudata nel mondo della musica rock. La maggior parte dei cantanti dei gruppi sono anche in genere i songwriter, o quantomeno gli autori dei testi. E l'esperienza con un gruppo si fonda in maniera del tutto ragionevole e giusta sul principio della democrazia, quindi con un gruppo tu fai una musica condivisa che chiaramente rispecchia l'anima di tutti e tre in una specie di mirabile sinergia, però a un certo punto un cantante si può proprio ritrovare ad avere per la testa delle musiche che vorrebbe condurre in un certo luogo e senza voler prevaricare sugli altri si fa il suo disco solista. Questa più o meno è la cosa. Poi c'è anche da dire che io ho iniziato ormai almeno 8-9 anni fa a fare delle mie comparsate live solitarie, che faccio la didascalia più semplice, proprio è musica e parole. Quindi io parlo con un interlocutore, ogni tanto alterno queste chiacchiere con delle musiche suonate. Essendo sempre state quelle del repertorio dei Marlene Kunz, credo fosse giunto il momento di avere delle mie canzoni per fare questa cosa, perché non era neanche giusto continuare a suonare pezzi che ho fatto con gli altri. Come hai vissuto quello che è successo in questo periodo storico difficilissimo? È come se non sia così. Cioè, allora, non posso dire ovviamente che mi aspettavo un virus, questo è evidente, nessuno se lo aspettava, ma non posso neanche negare che non mi aspettavo delle derive brutte della convivenza fra l'uomo e il pianeta e dell'uomo con i suoi consimili. Questo disco in fondo è stato scritto nell'arco di 3 anni e sono comunque stati 3 anni in cui certe mie turbe avevano proprio in maniera molto diretta a che fare con le cose brutte che accadono. Per me ci sono cose brutte che accadono. Io credo che il Covid in fondo sia anche un monito che non stiamo, secondo me, raccogliendo, perché c'è una gran smania a tornare al più presto come eravamo prima, ma purtroppo come eravamo prima è poco indicato per sperare che l'umanità si salvi. Ora, detta così, è catastrofista la cosa, però catastrofisti o no, però bisogna prendere atto che problemi ce ne sono. Nel periodo del lockdown gli artisti sono stati vicino al loro pubblico grazie alla rete. La rete è uno strumento eccezionale, lo sono i social. A me piace molto il percorso di avvicinamento che tu hai fatto al tuo album, ad esempio su Instagram, cercando di spiegare, di illustrare, di dare delle pillole, di anticipare il dialogo con il pubblico. Come ti è venuta questa idea? È una lenta elaborazione di tentativi, a volte riusciti, a volte in corso d'opera, di gestire l'interfaccia con i social. Io faccio parte di una generazione che deve cercare di interpretare un media che non è il nostro rapporto con il media non è esattamente quello che hanno i nativi digitali. Sto cercando di interpretare i social in un modo creativo, in un modo intrigante. Il mio pubblico credo lo abbia saputo comprendere e apprezzare, perché ad esempio nel momento pandemico della quella che è stata chiamata la reclusione, io mi sono ritrovato in effetti a fare una cosa che pensavo che non avrei voluto fare, cioè le dirette. Quando sono partite, quando è diventata una moda fare questa cosa con queste rassicurazioni un po' artificiose che non mi incominciavano molto, del tipo andrà tutto bene, dentro di me dicevo non sono sicuro che andrà tutto così bene. E ho cominciato a fare le mie dirette in una maniera preparata proprio. Ho invitato il mio pubblico a mandarmi delle domande, ne sono arrivate molte via mail e poi ho cercato di elaborare le risposte in maniera che spero fosse affascinante, cioè quindi proprio preparate. Il giorno della diretta per me era un giorno di pura preparazione, iniziavo al mattino verso le 10, alle 7 di sera mi presentavo preparato. Beh, niente a caso. Nel tuo disco si parla molto del futuro, anche con una certa ansia, panico, non lo so, insomma, con il futuro un po' una voragine. Adesso come ti poni di fronte a questo futuro? C'è un po' cambiato questo periodo? Sono pessimista, mi sembrerebbe di no. Si vedono tante cose che sono le brutte di prima e che continuano a rimanere. Mi sembra che vengano esacerbati i toni, vengono esacerbate le differenze, ci sono schermaglie all'interno del popolo proprio, sempre più divisive, sono cose che mi spiacciono molto e che mi fanno molto preoccupare. Poi, per carità, c'è sempre modo di sperare che non si degeneri, però insomma mi sembra sempre che siamo un po' in bilico sostanzialmente. Il disco racconta le ansie senza stare troppo a raccontare da dove provengono dalle brutture del mondo, secondo me provengono da tanti altri luoghi, e in quel testo in particolare il futuro diventa una voragine. Guarda, io le ansie le ho tutte, quindi non ti preoccupare che mi ci sono immersa con grande empatia. Io il campionario ce l'ho tutto. Davvero ti devo ringraziare tantissimo, perché intanto il disco è molto bello. Intanto ci godiamo un disco veramente molto molto molto bello. Grazie Cristiano. Grazie molte, grazie. Saluto tutti gli ascoltatori. Ciao. RadioTube Social Village. Estate è tempo di ballare. Io non so se Valeria in regia è d'accordo. Ci scateniamo un pochino. Allora, tanto voi non ci vedete perché siamo alla radio, quindi adesso io e Valeria balliamo veramente da pazzi. Andiamo. It's gonna be a special night. Gonna make you feel so right. Lady, lay down and let me take you for a ride. It'd be the best ride of your life. Feel my fingers touch your thighs. I love it when I hear your sigh. The mountain, I know you feel alright, lady. Yeah, I've been waiting forever for this night. Right here in your eyes, it's paradise, baby. Going so deep, lady, you got me hypnotized, baby. Quando sento questo pezzo già mi immagino con cocktail in mano, tacco alto, amiche bellissime, magari anche a bordo piscina, anche se tutto questo non è reale in questo momento, nella mia immaginazione c'è, e quindi ringrazio per questa Paradise Mario Biondi, bentornato a Radio Tube Mario. Grazie a te, è un piacere, grazie mille, grazie per questa presentazione e per il fatto che insomma il mio brano ti susciti tutte queste belle emozioni, sono contento. Dai, posso dire finalmente, perché ci voleva dopo un periodo così? Sì, io l'ho pensato così, l'ho pensato in questi termini proprio. Cioè, non, intanto non bisogna mai dimenticare, ovviamente, no, il periodo dal quale arriviamo, e non bisogna prendere sotto gamba la situazione, perché non è finito nulla, bisogna stare ancora sempre attenti. Però penso che questo brano qui possa avere intanto un bel input per gioire. Poi vabbè, se hai avuto occasione di analizzare appena appena il testo, insomma è un testo anche molto ammiccante, è un testo che ammicca parecchio alla sfera sessuale, e perché no, insomma, però senza essere volgari, senza necessariamente scendere nella tristezza della volgarità, che ormai diciamo che è diventata quasi un po' di uso comune nella nostra musica. Io ancora, insomma, ogni tanto qualche parolaccia la dico, però raramente, ecco, non sono amante della parolaccia. Beh, non è solo il testo che ammicca, perché sussurri, poi c'è un parlato alla Barry White. È stato anche una sorta di tributo a Barry White, assolutamente, perché questa è la sua musica, la musica da camera da letto, la musica che regala. Ma sai, tante volte mi hanno detto, no, molti dei miei fans mi dicono, che so, grazie a te ho passato una notte bellissima con la mia compagna o con una compagna occasionale, insomma, ognuno... Ah, pensavo che dicessi con la compagna di un altro, vabbè, indaghiamo. No, mi auguro di no, ecco. Quella è una parte che non mi piace, capito, concettualmente. Sono un po' all'antica per certi versi, mi piacciono le cose belle, anche perché molto spesso si cerca, non lo so, delle cose strane mentre a casa, insomma, puoi fare delle cose bellissime con la tua compagna se ti impegni e sai giocare, ma senza troppi archibugi. Mario, sei uscito prima con un singolo, poi con quest'altro singolo in un momento difficile in cui hai dovuto anche rimandare le tue date. Adesso finalmente si riapre un po', diciamo, si ricomincia. Sì, più o meno. Insomma, diciamo che alcune arene che hanno una capienza di 4.000 persone per 4.000 persone sono contingentate a poco meno di 1.000. Ovviamente è una ripartenza. In molti mi hanno anche, in un certo qual modo, anche sconsigliato di farlo, no? Perché naturalmente con una contingentazione del pubblico, naturalmente tutto viene a stringersi l'economia e insomma non sono da solo, ci sono tante persone intorno a me, tecnici, facchini, tante persone intorno a me, però appunto per questo ho detto, beh, se dobbiamo stringere un po' la cinghia però cominciare a lavorare io credo che possa essere un buon motivo, è un buon momento per farlo. Sono contento, ma poi ritrovare le persone, ho bisogno, ho voglia di ritornare sul palco, rivedere gli occhi delle persone e sentire adesso come stanno, perché è importante, sai, in questi periodi comunque ho scritto tanto anche sulle piattaforme social e comunque mi sono sempre confrontato un po' col pubblico, che nel frattempo ho perso degli amici, insomma questo periodo ci ha lasciato sicuramente uno strascico di dolore anche, ma siamo fuori in questo momento, e anche se non lo siamo totalmente dobbiamo imparare a vivere in questa contingenza, in questa problematica qua. Non è che poi possiamo chiudere in casa e rimanere chiusi in casa. Ciò non vuol dire l'estremo, al contrario, cioè non vuol dire che poi dobbiamo invece ammassarci in un gruppo di 20 persone, 30 persone e alitarci addosso l'un l'altro. Perché? Perché ancora ci sono delle problematiche. Tra le prime date c'è un'estate all'estero. Diciamo che in un mondo in cui tutti millantano successi in giro per l'Europa e non solo, tanti mentono, Mario Biondi no. L'hai detto tu, io non mi esprimo. Sei in giro per l'Europa già da fine luglio. Sì. Fra parentesi, da metà luglio, insomma dal 18 luglio, facciamo anche una data a Genova, facciamo questa data al Parco Nervi, all'arena del Parco Nervi. E dopodiché sì, si riparte per fortuna anche con l'estero per avere poi uno sbocco finale verso novembre, ottobre, novembre, dove le famose date che dovevamo fare in marzo, aprile, maggio, che sono state spostate, insomma le faremo di nuovo Inghilterra, faremo di nuovo Germania, Francia, faremo Ungheria, faremo, insomma, torniamo di nuovo a girare come i Rolling Stone. E poi ti tocca uscire l'album. Esatto, lo devi uscire, escimi l'album che lo sento. Dunque, sì, la verità è che questo album, questo progetto doveva uscire il 26 di marzo. Mai data fu meno propizia. Nel frattempo, appunto, tutti mi hanno detto fermi, alti il gioco, e ho detto arrivivis, cioè possiamo ripartire un attimino e usciamo intanto con Paradise, che ci dà un attimino di energia, e vediamo di uscire questo album possibilmente, che ne so io, a settembre, dai, se Dio vuole. A settembre, fra parentesi, mi esce anche una bambina, quindi secondo me può essere anche un bel momento dedicare l'uscita del disco a questa nuova creatura che arriva al mondo. Ho perso il conto, non so se hai fatto più album o più figli, ma mi sa che siamo lì. Più o meno lì, mi sa. No, forse qualche disco in più ancora, sì, ho qualche disco in più. Mario, la cosa bella di Paradise è che ci sono le alternative productions, cioè siamo tornati al disco mix degli anni '80, anche la versione molto da club. Cioè. C'è una versione, sono due versioni, secondo me, una fatta da DJ Memé, che è un famoso DJ brasiliano di Rio de Janeiro, che ho conosciuto appunto durante le mie registrazioni del disco Brasil. E poi c'è un mito della musica italiana, no? Della dance floor italiana, che è Joe Tivanelli, che ha fatto una versione anche particolare, no? Un po' azzardata, perché l'ha tirata su a 122 bpm, quindi corro come una lepre in un recinto, non so, corro come un pazzo. No, però è bello pensare che le prime serate che potremo goderci a prendere un po' d'aria, a stare con gli amici, certo, con tutti gli accorgimenti del caso, le misure da adottare, eccetera. Ma insomma, è bello pensare che ci sarà un tuo disco a farci compagnia. Non vedo l'ora. Per me sarà un grande piacere e soprattutto, sì, sono curioso di vedere che cosa suscita questo ansimare, insomma, che cosa combinerà. Tante volte, insomma, ripeto, mi hanno tacciato di aver aiutato le famiglie a crescere. Ho anche incontrato qualche bambino che si chiama Mario in nome mio, e questo mi fa molto piacere, sono grandi soddisfazioni. Beh, no, non potremo sapere davvero che effetto ha fatto, perché giustamente molte cose rimarranno nel segreto. Devono rimanere dove devono stare. Anche se voi donne, molto spesso devo dire che molte donne mi si avvicinano all'orecchio e mi dicono: sai che con queste canzoni tue hanno fatto delle... E io faccio: oh, ho capito, non voglio sapere altro, grazie. No, non voglio sapere. Mario, ti ringrazio tantissimo, davvero uno spicchio gustoso di inizio estate, speriamo davvero in tante date e presto l'album. Sono contento e ti ringrazio perché mi hai riempito il cuore col tuo sorriso e con la tua bella energia. Grazie a Mario Biondi, balleremo come pazzi Paradise, grazie. Ciao, a presto, grazie a tutti. Radio Tube Social Village. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte e debole compagna, che qualche volta impara, a volte insegna. L'eccitazione è un sintomo d'amore. L'eccitazione è un sintomo d'amore, o come dico sempre io, la citazione è un sintomo d'amore. Capolavoro, una donna per amico, una delle 45 canzoni di I Love My Radio. Questa è la versione di Eros Ramazzotti, versione fatta proprio solo per le radio italiane, solo per questa settimana. La prossima settimana ce ne sarà un'altra. Le radio italiane tutte insieme per festeggiare 45 anni di radio, i 45 milioni di ascoltatori della radio italiane, 45 anni di successi da votare in I Love My Radio sul sito ilovemyradio.it. Noi stiamo ripercorrendo questi 45 anni, un lustro alla volta, 5 anni alla volta, siamo arrivati al 2000 e come ogni sabato ci colleghiamo con l'autore del blog Suoni nell'Etere, Simone Fattore. Ciao Simone! Eccomi, buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio agli ascoltatori, spero mi sentiate bene. Ti sentiamo benissimo e ci sentiamo benissimo anche nel nuovo millennio, siamo arrivati al nuovo millennio. Sì, vorrei fare subito una annotazione geografica, perché se la scorsa cinquina era molto emiliana e si è parlato molto di Emilia per altre cose questa settimana, questa cinquina in qualche modo, con una piccola eccezione, è molto romana e non poteva che essere aperta da Lucio Battisti, romano di adozione, e Eros Ramazzotti. Quindi ci siamo, tutto a tema, Roma. Tutto a tema. Di Emilia parleremo nella prossima ora, perché ovviamente nell'attualità della rete, dalla rete si è parlato molto di Emilia. Approfondiremo nella prossima ora quella di Radio Tube Social Network. Valeria, siamo pronti con la prima canzone, quella del 2000? Eccola. Ricordi i giorni chiari dell'estate, quando parlavamo fra le passeggiate. Stammi più vicino, ora che ho paura, perché in questa fretta tutto si consuma. Siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo, che segnano un percorso profondissimo dentro di loro. Di romancino, due destini, fa molto anno 2000. Cosa possiamo dire di due destini, Simone? Beh, cosa possiamo dire di Due Destini? Due Destini esce in questo album che si chiama La descrizione di un attimo, altra canzone stupenda di Tiro Mancino. Dopo la partecipazione a Sanremo tra i giovani con Strade, secondo posto, l'album comincia ad andare bene, ma si accorge di questa canzone, Ferzan Ospetek, del quale tra l'altro riparleremo anche tra un po', e lo inserisce nella colonna sonora delle Fate Ignoranti. Esce il film e a quel punto è un successo clamoroso. In quel momento, tra l'altro, c'è anche un cambio di formazione nei Tiro Mancino, proprio nel momento di massimo successo, formazione che poi cambierà nel corso degli anni. Quello che rimarrà, diciamo, sempre l'immagine e il volto di Tiro Mancino sarà Federico Zampaglione. Tra l'altro c'è una curiosità sul video di questa canzone, che ha un video gemello, però non abbiamo molto tempo per parlarne adesso, e quindi lo trovate sul mio profilo Twitter, l'ho raccontata, lo ritwitto subito così grazie, andiamo ad approfondire, due video gemelli con tantissimi ospiti su Due Destini, tra l'altro video molto bello, vi consiglio di andarlo a vedere, e grande successo del 2000, la canzone più ascoltata nelle radio del 2000, oltre che nei cinema. Simone, ti ricordi in che anno ci siamo conosciuti io e te? Ma che scherzi, nell'anno successivo a Due Destini, e Due Destini che si incontrano a Sanremo nel 2001. Nel 2001, io e te, cosa c'era a Sanremo nel 2001, Valeria? Per me è un ricordo bellissimo, il mio primo Sanremo 2001, Elisa, luce, tra parentesi, tramonti a nord-est. Importante questo sottotitolo, perché lo inserisce l'autrice occulta di questa canzone. Questa canzone nasce nel 2000 in inglese, si chiama Can't Speak to Me, poi è anche uscita in inglese, ma Elisa deve andare a Sanremo e quindi serve una canzone in italiano, chiede aiuto a Zucchero per tradurre più o meno il testo, comunque adattarlo e farne una canzone italiana. In questo lavoro interviene anche la mamma di Elisa, che non figura tra gli autori perché non è iscritta alla SIAE, ma inserisce alcune cose nella canzone, tra cui questo sottotitolo Tramonti a Nord-Est, e il pezzo vince il Festival di Sanremo e vince anche lo stesso anno il Premio della Critica. Adesso non so quante volte è accaduto nella storia del Festival di Sanremo, credo poche, so che tra poco avrai Eddie, potrai chiederlo a lui quante volte è successo, però insomma è una cosa abbastanza particolare mettere d'accordo pubblico e critica nello stesso anno al Festival di Sanremo. Elisa canta per la prima volta in italiano, vince il Festival di Sanremo, grandissimo successo nel 2001, beh, questa è la sua canzone, devo dire. Sì, poi avremo Eddie Anselmi e quindi glielo chiederemo, gli facciamo questa domanda: quante volte il vincitore di Sanremo ha vinto anche il Premio della Critica? Passiamo al 2002, siamo sempre in zona Sanremo, eccola qua. Salirò, salirò fra le rose di questo giardino, salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, pompa, pompa, pompa. ovviamente che questa da ballare, con la coreografia, devo ripassarla, non me la ricordo più benissimo, Salirò, Daniele Silvestri, Simone. La coreografia di Fabio Ferri che arriva in finale, devo dire, se questa, se la canzone precedente aveva messo d'accordo pubblico e critica, questa no, perché vince il premio della critica, ma in classifica si piazza soltanto al 14° posto. Ma poi, diciamo, esplode anche grazie al balletto di Fabio Ferri in finale, che diventa un vero e proprio tormentone, una canzone che mette subito allegria, ma che invece racconta di un momento molto complicato, vissuto tra l'altro da Daniele Silvestri, perché qualche mese prima, l'anno precedente, era morto suo padre, il grande Alberto Silvestri, che è stato un grande sceneggiatore. A lui dobbiamo tra l'altro Sandokan e anche Yuppidu, ma anche il Maurizio Costanzo Show, Uomini e Donne, eccetera, eccetera. E quindi lui ha vissuto un momento di forte depressione e ha scritto questa canzone quando ha cominciato a capire che era il momento di risollevarsi, e quindi era più che altro una speranza e non un risollevamento, diciamo, vero e proprio. Nasce questa canzone molto elaborata e arrangiata da Demo Morselli, arriva a Sanremo, ci mette un po' ad imporsi, ma quando ci riesce, poi nel 2002 diventa il vero tormentone delle radio italiane. Eh sì, si è imposta tanto che tra le 45 canzoni di I Love My Radio. Passiamo all'anno successivo, che chi ci sarà? Chi ci sarà nel 2003? Di memoria, Giorgia, ecco perché ci parlavi di Ferzan Özpetek, Simone. Insomma, uno che se ne intende, Diodato insegna, come dire, ci potrebbe raccontare qualcosa anche Diodato, perché anche questa canzone è inserita nella colonna sonora di un film di Ferzan Özpetek, ovvero La finestra di fronte. Tra l'altro mi fa pensare molto a un punto particolare di Roma, ovvero Ponte Sisto, dove è girato il video di questa canzone con tutto il cast del film, tranne uno, Massimo Girotti, che nel frattempo era deceduto appena finito il film. C'è questo video molto bello, e questa è la canzone, diciamo, di maggior successo di Giorgia, non soltanto nel 2003, ma anche proprio della sua carriera, scritta insieme ad Andrea Guerra. Le parole sono di Giorgia, molti ci hanno visto un riferimento, per carità possibile, a Alex Baroni. In realtà racconta molto la vicenda del film La finestra di fronte, e tra l'altro questo brano, oltre a vincere un sacco di premi nel mondo del cinema, cioè tutti i premi italiani sulle colonne sonore quell'anno lo vinse Gocce di memoria di Giorgia, è stato anche il singolo più venduto nel 2003. Passiamo al 2004. Ragazzi, anche il 2004 gioca molto molto molto forte. Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Io la ascolterei tutta, però non si può, perché possiamo solo dare dei piccoli assaggi, perché in un blocco solo di trasmissione 5 grandi canzoni, 5 anni, ma tutte le canzoni le potete riascoltare sul sito ilovemyradio.it. 2004, a Serenieri, Tiziano Ferro. Che cosa si può dire? Leggermente da Roma, di 50 chilometri, arriviamo a Latina, quindi sempre in zona rimaniamo, l'album 111 di Tiziano Ferro, quello che fa riferimento al suo peso da adolescente, ed è un pezzo che, a parte, c'entra qualcosa anche con il cinema, perché questo pezzo è inserito nella colonna sonora di Tre metri sopra il cielo. Ma questo pezzo, ancora oggi a distanza di 16 anni, a proposito di radio, mantiene ancora il record di passaggi radiofonici in una sola settimana. Nel frattempo nessuno è riuscito a battere questo record. In una settimana precisa del 2004, Sere Nere è stato il pezzo più passato in assoluto da tutte le radio italiane, ma a ripetizione, insomma, credo qualcuno abbia, c'erano ancora le puntine del 2004, credo di sì, e alla fine qualcuno ha rigato il disco e quindi è uno di quei brani che, come dire, racchiudono proprio l'idea di questa grande iniziativa di I Love My Radio, che tra l'altro mi dicono sta ricevendo molti più voti del previsto e anche con cose inaspettate, ma non si può dire niente fino al 28 di luglio. Sai più di me, io non so nulla, sì. Sei molto informato, d'altronde suoni nell'etere il tuo blog. Grazie a Simone Fattori, ci ritroviamo la prossima settimana. Ciao Simone. Grazie a voi, a sabato prossimo, ciao. Noi di Abilità e poi ancora insieme per parlare di televisione. Hai visto il mio nuovo Xiaomi Mi 10? Ha la fotocamera da 108 megapixel e fai video in 8K. Ah, vediamo. Guarda questo, è Luca sulla moto d'acqua. Che dettagli, le onde, gli spruzzi. È Luca che cade in acqua. Ora lo condivido e in un attimo lo vedranno tutti. Ho la rete top quality Wind 3. Guarda l'estate in modo nuovo. Con Wind 3 Unlimited puoi avere Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Lite con giga illimitati. Da 1,99€ in più al mese anche con anticipo zero. Per info, anticipi, metodo di pagamento, costi e termini dell'offerta ti aspettiamo nei Wind 3 Store. Radio Tube Social Village. Ed è tornato questa settimana uno degli appuntamenti più divertenti della TV. Lo accogliamo con questa piccola clip. Senti, io non avrei voluto farlo, ma ho comprato sto coso dai cinesi. Ma che è? Te ne accorgerai di niente. Francesco, guarda, se una delle cazzate tue io ti do un cartone in faccia. Tasto 1, risata. Tasto 2, applauso. Tasto 3, boato. Praticamente una truffa. Signore e signori, un grandissimo applauso per Michela Giro! E benvenuti a CCN! Bubù! Lo so che vi aspettavate un professionista serio come Saverio Raimondo, ma non vi preoccupate, anche io occasionalmente so parlare l'italiano. Io non sono figlia di un delfino, ma se mi seguirete per tutte e 10 le puntate scoprirete di chi sono figlia. E iniziamo parlando della cosa che amo di più. Io. E anch'io faccio un grosso applauso, piccolino, tutto mio, solo da sola, quindi faccio un mono applauso a Michela Giro. Ciao Michela, bentornata, ciao, a Radio, ciao, Tube. Ciao. Allora, ti è passata un po' l'ansia, la prima conduttrice donna di Comedy Central News, la prima conduttrice dopo 5 anni di Saverio Raimondo. È bella, un po' d'ansia. Beh, adesso, mentre me lo dici, mi ritorna però. No, dai, no. Mi è passata perché... Diciamo che sono stati, guarda, il momento in cui ce l'ho avuto è quando sono entrata nello studio, dico la verità, obiettivamente, poi è stato subito come stare dentro la cameretta della mia casa dove sono cresciuta, quindi proprio, poi in realtà è stato anche un bene, un lusso avere il passaggio dopo Saverio, perché comunque... Scusami, il passaggio da parte di Saverio, perché Saverio è il mio maestro ed è un amico, quindi comunque è come se lui mi avesse passato il testimone, quindi è stata una cosa molto bella. Probabilmente non l'avrei fatto, non sarei stata così tranquilla con un altro programma, devo dirlo. No, sono contenta, mi ha fatto molto divertire. Allora, fatemi dare anche qualche indicazione pratica, perché è iniziato il 24 alle 23 su Comedy, esatto, Central, canale 128 di Sky, in streaming su Now TV. Lo trovate in rete senza nessun problema, perché cioè, la prima puntata c'è, quindi andatevelo a vedere. Sì, c'è anche su YouTube la prima puntata, quindi lo potete andare a vedere. Poi dalla prossima settimana per 10 puntate, appunto, torna Comedy Central News. Mi ha fatto molto sorridere l'inizio, perché tu hai detto: mi hanno dato questa bella notizia, questa trasmissione fighissima, Michela, sarà tua questa trasmissione. Pam, scoppia la pandemia. Sì. No. Quindi ho detto, a Cinesa, se mi andava a vedere il programma mio bastava dirlo, non è che dovete fare sto casino. Quindi diciamo ho fatto un po' questa roba, perché poi alla fine veramente ti arriva l'occasione della vita, poi arriva una pandemia mondiale che ti toglie il pubblico, non ti dà tregua, non ti dà tempo, ti mette tutto in dubbio, quindi noi abbiamo fatto tutto questo tra gli scampoli dell'angoscia di questo periodo terrificante, però ce l'abbiamo fatta. È più difficile farlo senza pubblico. Io ho fatto, sono stata molte volte a vedere Saverio fare CCN, perché appunto a me piace moltissimo la trasmissione, sì. E hai proprio, cioè, la risposta immediata delle risate davanti a te. Così è più difficile. Ti fomenta, ti crea anche uno spessore dal punto di vista della prestazione. Lo è stato, ma ci siamo difesi. Dico, ci siamo difesi perché comunque il mio è sempre un lavoro collettivo. Io ho degli autori, Lucio Wilson, Marco Vicari, Chiara Galeazzi, Daniela Delle Foglie, di tutto il cast composto da Francesco Marioni, Martina Catuzzi, Le Coliche, Edoardo Ferrario, Manuela Fanelli. Quindi comunque, insomma, devo dire, ci siamo difesi bene. Sì, io mi sono divertita tantissimo, poi sono una grande fan anche di tutti i tuoi collaboratori, Martina, che è fighissima, Manuela Fanelli, strafantastica anche lei, delle coliche, neanche lo diciamo perché io le mando in onda quasi tutte le settimane su RadioTube perché mi fanno morire dal ridere. Senti, quindi le donne fanno ridere davvero? Cioè, siamo capaci? Non lo so, sono una donna, sono un uomo, non lo so. Cioè, è pazzesca sta cosa, bello, sono contenta perché... È una scoperta. Un po' sì, bello, l'hanno capito tutti. Cioè, non è una la scoperta che si possa scoprire che, wow, è anche una con un gran fisico, con un gran paio di gambe, e mi fermo lì, che fa pure ridere, no, mi è piaciuta avanti, molto. Vai avanti. No, che siamo alla radio. No, sai cosa, stavo facendo anche dei gesti, ma non si vedono alla radio. No, purtroppo non si vedono. Li immagino, no, guarda, vabbè, in realtà... Vabbè, la ma questione... andiamo d'accordo, quindi non è una cosa che è familiare anche per me, quindi insomma era quel gesto lì. No, però dai, fantastico. Ho capito quale, Guarda, ti dico, sì, obiettivamente io sento molto, non ho mai sentito questa questione di genere, ti dico la verità, io ho sempre fatto come se non ci fosse, perché per me, sai, la comicità è come la matematica, c'è una premessa, poi... c'è una disattesa che spiazza la stampa e poi da lì si genera la risata, quindi è una cosa abbastanza comune al cervello umano più che al sesso di chi la fa, quindi comunque io non mi sono mai fatta problemi. Vedo che chiaramente io credevo che CCN fosse stato analizzato al dettaglio in maniera chirurgica e non mi hanno risparmiato nulla, mi contestano dalla risata finta a di tutto, proprio in maniera veramente molto, molto puntuale. E, insomma, dimenticando che poi delle volte, sai, non c'era possibilità di far venire il pubblico, però cavoli. In realtà ti dico, io di mio sì è vero, c'è molto questo pregiudizio soprattutto in un paese come l'Italia, però io, guarda, non la sento proprio questa cosa, non mi interessa. Anche per questo mi piace tantissimo Michela Giro, ragazzi. Mi ma piace che devo tanto fare? Io devo lavorare, mica posso perdere tempo. C'hai ragione, hai ragione. Intanto mi hai spiegato perché non capivo parlare la matematica. Perché c'è, cos'è aspettativa disattesa e dopo c'è la io rimanevo all'aspettativa disattesa. Ecco perché non capivo la matematica. Vedi, allora mi posso anche prendere un'altra laurea in matematica, vado subito, fallo tu, scuola sapienza. Michela, quando la prossima puntata? Mercoledì in seconda serata? Martedì e mercoledì, la prossima settimana due. No, allora io ci tengo a dire anche che subito dopo CCN c'è CCN il salotto. Certo. Che è una cosa completamente, diciamo, è folle, perché c'è un canovaccio e, diciamo, io invito un comico e un attore con... c'è il sottofondo del maestro Valerio Lundini al piano. Ma è fantastico. E le rubriche, sì, di Stefano Rapone, Martina Catuzzi e anche successivamente Paolo Camilli. E diciamo che loro, insomma, è tutto lì, si giocherà, si improvviserà molto. Ed è una cosa molto diversa da CCN. Quindi sono quattro puntate di Michela Giro a settimana. Michela, io ti devo salutare perché devo dare la linea a Vincenzo Miglietta, che è già seduto lì nello studio di Roma. Ciao Vincenzo, ci stiamo facendo, ciao. Grazie a Michela Giro, un abbraccio. Ciao. A presto, ciao.